Liberi Dentro Eduradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città. Buongiorno a tutte e tutti, è martedì 20 luglio, siete su Liberi Dentro Eduradio TV, ora in onda su Radio Città Cugico, poi Teletricolore e Lepida TV Canale 118. Io sono Caterina, la cura conduzione di questo programma con Antonella Cortese. Buongiorno Antonella. Buongiorno Caterina, buongiorno a tutte e a tutti. Ricordalo tu. Vi ricordo di continuare a essere così generosi. Continuate a donare su www.ideaginger.it, cercate il nostro progetto Eduradio TV, proprio per consentire che questa trasmissione continui non soltanto ad agosto, ma anche a settembre. Vi aspettiamo, grazie. E come vi dicevo ieri, la nostra rassegna ha per tema sempre Santa Maria Capua Vetere. È gravissimo quello che è successo e vogliamo ascoltare tutte le voci. In questo caso leggo a firma di Elena Del Mastro su Il Riformista: pestaggio a Santa Maria Capua Vetere, la gente che si oppose, presero a manganellate anche me. Perché così nella storia orribile dei pestaggi nel carcere di Caserta spuca la storia di chi invece quella mattanza cercò di arginarla. È uno dei 52 agenti indagati per questa mattanza, è sottoposto anche lui a misura restrittiva, all'obbligo di dimora, e dalle prime ricostruzioni e da quanto testimoniato dai detenuti stessi sembrerebbe che ci sia stato un solo agente, per l'appunto, che provò senza successo ad arginare quella follia. Certo, Caterina, è stato un gesto esemplare il suo, ma mi spieghi un po' la dinamica. Allora, l'ispettore, ha scritto il GIP Sargenea, è stato pressoché l'unico ad essersi effettivamente attivato per contenere l'escandescenza dei suoi sottoposti, intervenendo più volte energicamente, come ha riportato anche la Repubblica. Si tratta perciò di azioni che sono state riscontrate anche nelle dichiarazioni di alcuni detenuti e anche dalle telecamere di videosorveglianza. Che cosa dicono le testimonianze dei detenuti? Esatto, cercando per l'appunto di dare spazio ai detenuti che hanno vissuto sulla loro pelle quelle ore terribili. Dalle testimonianze raccolte, un detenuto ha detto: io lo riconosco come colui che ha protetto. Qualcun altro ha detto: è stato l'unico che non ha picchiato. Un altro ancora ha detto: ha fermato il pestaggio su un altro detenuto. Anche quando intima ai reclusi di volgere la faccia verso il muro, dai filmati si evince che è l'unico che prova a fermare i suoi colleghi che pestano. Ed è anche l'unico, scrive sempre il GIP, tra gli ispettori di quel reparto, a non realizzare carte false ex post per coprire le spalle dei colleghi, ovvero a non sottoscrivere quella nota del 6 di aprile del 2020 in cui è stato falsamente rappresentato che i detenuti avevano opposto resistenza. Quindi l'ispettore avrebbe cercato in tutti i modi di fermare la mattanza, ma i colleghi non ne avrebbero voluto sapere nulla, è così? Guarda, ti leggo che cosa ha risposto a Repubblica l'ispettore tramite il suo avvocato. Non so come nacque quella perquisizione, so che ci trovavamo in istituto i colleghi del gruppo speciale di supporto che venivano da fuori. Era impossibile arginare ciò che stava avvenendo. Quindi lui ha provato in più occasioni ad arginare la violenza, però dice a un certo punto: alcuni colpi hanno preso anche me, ho dovuto fermarmi. Ero molto provato perché questa vicenda non appartiene alla mia storia, al mio legame con la divisa e perché da cardiopatico non riuscivo a reggere. In più occasioni, come gli atti dimostrano, ho cercato di evitare che i detenuti prendessero colpi. Quindi alla fine alla giornalista che gli chiede se fosse in grado di riconoscere i colleghi che fecero quelle violenze, risponde che purtroppo erano coperti da caschi integrali, quindi non li avrebbe visti in volto. Quindi addirittura, da quanto riportato da Repubblica, quando l'ispettore provava a fermare quella mattanza, i colleghi gli risposero: fatti i fatti tuoi. E questa è una frase emblematica di quello che invece ora lo Stato non deve fare, perché bisogna farsi i fatti invece degli altri per riportare in auge la dignità dell'essere umano. Sì, infatti è proprio un'espressione molto molto brutta questa dei fatti tuoi, ma passiamo ad un altro argomento. Caterina, che cosa ci fai ascoltare? Ma allora riprendiamo con testi e canzoni sul senso della vita e allora Un senso di Vasco Rossi. Voglio trovare un senso questa sera, anche se questa sera un senso non ce l'ha. voglio trovare un senso a questa vita, anche se questa vita un senso non ce l'ha. Voglio trovare un senso a questa storia, anche se questa storia un senso non ce l'ha. Voglio trovare un senso a questa voglia, anche se questa voglia un senso non ce l'ha. Sai che cosa penso? Che se non ha un senso, domani arriverà. Domani arriverà lo stesso. Senti che bel vento, non basta mai il tempo, domani un altro giorno arriverà. E rieccoci, sempre su Liberi Dentro di Radio TV, riprendiamo il filo delle nostre notizie, ora con Antonella, sempre con la nostra finestra sul mondo, vero? Perché ci parli di Len Bias, leggenda del basket? Sì, andiamo negli Stati Uniti d'America negli anni Ottanta, che fu un periodo molto particolare, di grande ricchezza per pochi, di grande miseria per altri. Il dogma del successo individuale scavò un solco profondo soprattutto nella comunità afroamericana, mentre si affermavano i primi milionari neri con una fama mondiale, pensate a Oprah Winfrey, per esempio, Bill Cosby, Michael Jordan, nei quartieri delle grandi città si fiondeva sempre di più la povertà e la criminalità. C'era una generazione di giovani neri abbandonata a se stessa, in buona sostanza. Forse nessuna storia racconta meglio questa frattura come quella di Len Bias, uno dei migliori talenti del basket. Aveva tutto per essere il prossimo nero ricco e famoso di successo, e invece purtroppo diventò il simbolo della repressione del governo contro i giovani neri. Una repressione indiretta in qualche modo, e compresa successivamente in realtà. Ma parlaci di lui e cosa c'entra con il governo americano? Allora, il 17 giugno del 1986, Bias, star della squadra di basket dell'Università del Maryland, fu scelto dai leggendari Boston Celtics per giocare addirittura nel campionato professionistico dell'NBA, uno dei campionati più belli del mondo. Sarebbe sceso in campo addirittura al fianco di Larry Bird, un'altra leggenda. Poi tornò a casa per salutare amici e parenti prima di fare il grande salto, e in una delle camere della University of Maryland si trovò alle 6 del mattino un ragazzone, era lui, di 2,03 m, steso a terra sul pavimento, sudato, senza maglietta, incosciente. Aveva appena avuto le convulsioni ed era fermo, immobile. Leonard Kevin Bias, così si chiamava, il nome, questo era il nome per intero, aveva 22 anni e poco prima era l'uomo più felice della Terra perché aveva raggiunto il successo che meritava, perché era stato un giocatore fantastico, ma per un arresto cardiorespiratorio morì da lì a poco. È purtroppo una di quelle strane e tristi storie che finiscono troppo presto e troppo male in realtà, e forse non è mai iniziata veramente. E la protagonista di questa storia in realtà è una sola, ed è la droga, la sostanza stupefacente che di fatto è la cocaina. Ma tutto questo Len non lo sa, è un bravo ragazzo, lo chiamano, ha un soprannome che è Frosty, dal pastore della sua chiesa, perché era un ragazzone tranquillo che partecipava alla vita appunto della comunità e giocava a pallacanestro. Queste erano le sue due passioni. E meno di 48 ore prima di trovarsi in condizioni così critiche e così gravi, era invece sul palco del Madison Square Garden, proprio al draft NBA del 1986, con il cappellino tanto agognato dei Celtics e un sorriso smagliante. Per tutti questa vicenda dimostra la gravità dell'epidemia di droga in corso nel paese e fornì ai politici di tutti gli schieramenti l'occasione per un ulteriore giro di vita. Infatti, nel 1986 la Camera dei Rappresentanti approvò l'Anti-Drug Abuse Act, subito firmata dall'allora presidente Reagan. Il provvedimento, tuttora conosciuto come legge Len Bias, inaspriva le pene minime per gli spacciatori e introduceva l'ergastolo per chi vendeva droghe che causavano la morte di un'altra persona. Ma non trattava tutte le droghe allo stesso modo, infatti colpiva duramente lo spaccio del crack, una sostanza diffusa soprattutto tra gli afroamericani, e meno la cocaina, più consumata dai bianchi e soprattutto negli ambienti, tra virgolette, bene. Solo di recente, ha scritto Jonathan Gelber del Guardian, si è cominciato a correggere questi errori. Nel 2010, infatti, è stata portata da 5 a 28 grammi la quantità di crack che fa scattare un'incriminazione federale, e ora l'amministrazione Biden sta cercando di cancellare la disparità nel codice penale. Quindi una storia che da un personaggio ci porta a delle scelte di governo ben precise per arginare quelli che sono i problemi ormai dei nostri anni. Dagli anni 70 in poi abbiamo avuto questo grave problema delle droghe. Però restiamo con la Carrà, ma prima il nostro stacchetto virtuoso. Sì, continuiamo allora con Raffaella Carrà. Vi facciamo ascoltare Adriano Celentano e Raffaella Carrà in Prison Call in Eastern Chusel. Nel 1974 viene registrato questo stupendo e premiatissimo primo filmato musicale. Ascoltatelo. Liberi Dentro e Duradio TV, un ponte tra carcere e città. Una diversa narrazione dell'universo carcere. In linea con il mandato costituzionale, le pene devono tendere alla rieducazione delle persone ristrette. L'estate in carcere è un tempo infinito di solitudine, abbandono e caldo. Dobbiamo veramente fermarci qua? Aiutateci a continuare a portare le nostre voci nelle carceri dell'Emilia-Romagna. L'associazione Il Podeschi per il Carcere di Bologna ha preso parte al progetto Eduradio Liberi Dentro attraverso la partecipazione tra diversi laboratori. Liberation Prison Project è con Eduradio per parlare di buddismo, per condividere esperienze di liberazione della mente, la nostra vera prigione. Sostieni Eduradio e TV. Aiutaci a mantenere attivo questo ponte fra carcere e città. Per donare, collegati alla piattaforma www.ideaginger.it e cerca il progetto Eduradio TV. Eccovi, bentornati sempre sul nostro programma Liberi Dentro Eduradio TV. Do il buongiorno e il bentornata a Maria Inglese, psichiatra presso AUSL di Parma, che ormai conoscete già. Ciao Maria. Ciao, ciao a tutti, ciao Caterina e ciao a tutte le persone che ci ascoltano e ci vedono. Allora, devi sapere Maria che per tutta la settimana scorsa abbiamo dato notizie che hanno toccato ovviamente i fatti tragici di Santa Maria Capua Vetere. Abbiamo cercato di darne una lettura con diverse persone che hanno partecipato come ospiti in puntata, ma anche il punto di vista, diciamo, della salute, delle nostre emozioni, della salute mentale. Volevo discutere con te su questo, ma anche come società esterna, perché a questi fatti sempre ci toccano. Abbiamo visto le immagini sul quotidiano Domani, abbiamo visto le telecamere di videosorveglianza e ci sorprendono, ma sempre come se fosse la prima volta. Però sappiamo che purtroppo non è così. No, esattamente, non è mai la prima volta. Sembra la prima volta, ma in realtà questi episodi appunto sono noti in alcuni casi, molte volte non sono noti, non vengono denunciati. Quello che colpisce questa volta è aver avuto così tanto accesso a delle immagini reali, no? Delle immagini di riprese dalle telecamere, e questo naturalmente colpisce le persone della comunità, le persone che magari non hanno a mente che ci sono le carceri, che ci sono persone che restano chiuse in questa comunità, in questa istituzione totale. È questo che forse è un po' più la novità, se vogliamo, però in realtà questo tipo di episodi ci sono sempre stati. Penso che ecco, lo straniamento che può provare una persona che non sa magari nulla di carcere, che non ha avuto esperienza né di narrazioni che riguardano il carcere, non se ne è mai interessato, no? Cosa succede dentro a un carcere? Ecco, queste persone sono magari state colpite. E quindi penso che forse potrebbe essere anche una prova un po' di maggiore capacità di identificazione, di empatia, no? Che cosa succede a un altro in quelle condizioni? Cioè, cosa succede in un luogo così chiuso nel quale io non sono mai entrato? Ecco, questo sforzo di immaginazione, no? Che poi in fondo è l'empatia. L'empatia è la capacità di immaginarsi nei panni e nelle scarpe dell'altro. Secondo me, appunto, con le immagini potrebbe essere stato più sollecitato. Mi chiedo però che risposta a lungo termine possa avere questo, perché noi siamo anche animali molto strani, ci emozioniamo, ci commuoviamo, ci arrabbiamo e poi però ci dimentichiamo molto spesso, no, di quello che abbiamo provato. Ecco, io vorrei, è quello che spero sempre, che attraverso delle narrazioni un pochino più approfondite, in fondo anche quello che fate, che facciamo alla radio è un po' questo, cercare di approfondire le narrazioni, le storie, gli episodi, no, quello che succede, le notizie, e riuscire a creare questa capacità di immaginazione e di identificazione con l'altro, in questo caso l'altro recluso e l'altro che deve controllare il recluso, perché qui veramente il disagio è sia verso la violenza che viene agita su questi detenuti, su queste persone ristrette, ma il disagio molto forte è anche nella possibilità di capire come si possa arrivare ad agire quella violenza. Ecco, una doppia sfida sulla capacità di identificazione e di immaginazione. E interroga moltissimo, penso che veramente la prima domanda che mi sono posta è da che parte sto, da che parte si sta. Si sta dalla parte della vittima? Naturalmente. Si sta dalla parte anche del perpetratore? Dobbiamo cercare di capire, ecco, forse questa è la sollecitazione principale, cerchiamo di capire. Esatto, cerchiamo di capire dopo con una domanda anche dopo il nostro brano musicale. Intanto ascoltiamo Cristiano De André con Fragile Scusa e noi ci rivediamo tra poco. Quanti amici ho sentito partire, le chitarre scordate, con le vene bruciate dal taglio in un giorno d'estate. Quanto amore ci vuole per capire il dolore, e poi quanto dolore per capire l'amore. Questa storia è una storia scontata, una domanda infinita, è un'infanzia sorpresa alle spalle, una fragile scusa. Quanto tempo ci vuole per capire l'amore, e poi quanto dolore per capire me. Mi sono perso e ritrovato nelle vie che mi han cresciuto, perso nel buio, salvo per caso. Ho creduto a troppa gente, troppe facce in chiaro scuro, ma batte il mio cuore più forte di ogni. Ben ritrovati sulle note di Cristiano De André, Fragile Scusa. Siamo sempre con Maria Inglese, psichiatra presso la USL di Parma. Stiamo parlando dei fatti di Santa Maria Capua Vetere. Stiamo cercando di capire, stiamo cercando anche di metterci nelle scarpe di chi quel lavoro di custodia dovrebbe esercitarlo portando l'onore per la divisa che indossa tutti i giorni. E ci sono delle persone che lo fanno, qui non vogliamo negare che esistano delle persone che facciano il loro lavoro per bene. Stiamo parlando degli agenti di polizia penitenziaria e io ti chiedo, Maria, è stato un anno e mezzo di pandemia veramente duro. Però da sempre il carcere è un posto difficile in cui lavorare. C'è una fragilità degli agenti e quali risvolti potrebbe avere sulla loro professionalità queste brutte immagini che abbiamo visto? Esatto, Caterina, esiste secondo me una fragilità molto evidente che è quella di non poter noi da esterni al carcere empatizzare con loro. Cioè, e questo è già una cosa molto strana, cioè noi dobbiamo prendere le distanze da quei gesti, no? Da quelle violenze. Però, visto che cerchiamo di capire, io penso che il discorso non si possa chiudere con sono pochi agenti, poche persone che fanno le famose mele marce, no? Cioè questo modo di intendere questi episodi quando succedono, ma sono delle mele marce. In realtà non è così. Dobbiamo cominciare a capire che forse è il dispositivo, è l'istituzione totale, è la reclusione fatta in quel modo, è un certo tipo di carcere che rende possibile certi episodi, dove avviene appunto una disidentificazione dell'uno nell'altro, questa possibilità di non guardarsi occhi negli occhi da simile a simile. Allora, questo non avviene perché sono appunto delle persone psicopatiche, gli agenti, o persone disturbate, o persone violente. Avviene, secondo me, perché c'è un problema legato proprio al luogo. E sicuramente una fragilità degli agenti è quella di essere un po' impreparati, poco formati, poco aggiornati, no, su chi hanno di fronte. E quindi una prima modalità mi viene in mente che sia quella appunto di accompagnare una formazione un po' diversa nelle persone che devono lavorare tutto il giorno cercando di contenere degli altri simili, degli altri umani. Ma allora, prima di tutto la formazione e la capacità di relazionarsi con l'umano, riuscire a intuire chi è l'altro diverso da me, perché appunto il carcere oggi è veramente un laboratorio di differenze, è un laboratorio di estraneità, di persone estranee al mio mondo. E questo gli agenti lo vivono tutti i giorni e lo esperiscono tutti i giorni. Ecco, penso che nella fragilità degli agenti ci sia un po' questo richiamo ad essere più capaci di empatizzare, come dicevo, di identificarsi, di guardarsi occhi negli occhi. In quelle immagini ci sono persone invece coperte, no? Che non puoi guardare negli occhi. E l'altra è appunto di formarsi alla capacità di incontrare le narrazioni, le storie, delle biografie di queste persone, da una parte e dall'altra. Grazie Maria, grazie di tutto. Allora, caro amico fragile di Ron. Ciao Maria, a presto. Ciao. Fuoco rettile. stretta forte contro il cuore. Ma adesso dov'è? Adesso dov'è? Caro amico fragile, tra Dio e diavolo, mi amasti forse più degli altri, ho sempre saputo. Ah, ah. Ma caro amico fragile, tra sangue e gelosia, tu sei stato quello che siamo giunti anche oggi ai saluti di fine puntata dopo aver ascoltato la nostra psichiatra USL di Parma, Maria Inglese, per leggere i fatti di Santa Maria Capua Vetere. Se avete delle domande, dei pensieri, delle riflessioni su questo, potete scriverci redazionelibridentro@gmail.com oppure Chiesa Santissima Annunziata, via San Mamolo 2, 40136 Bologna. Un ringraziamento speciale ad Enea Flacco qui con noi al montaggio di queste puntate, a Antonella Cortese. Un ringraziamento in particolare a voi e il rimando è a tra poco con le rubriche. Oggi parliamo di avremo migrazioni, vita in movimento con l'intervista di Anna Bota. A domani. Liberi Dentro e Eduradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città.